Avra has known this for decades. She picks her own fruit and uses them for a deli business. Her workshop is practically a big kitchen, and the work is like cooking for a big family, something she does anyway. With her house right above the shop, she can never be late for work and wouldn't change this for anything a city could offer. Ritorno alla terra. Questo era il titolo di un articolo pubblicato su Press Europe, preso da The Independent. Ritorno alla terra, i greci, la crisi di cui tanto abbiamo parlato, cercando anche quelle che sono soluzioni creative che ne abbiamo viste, di cui abbiamo parlato in queste settimane. Si è preso spunto dall'isola di Nassau, un'isola conosciutissima, un'isola famosa, un'isola meta turistica, dove la gente sta ritornando a coltivare la terra e ad allevare gli animali, le bestie, proprio per tentare di sopravvivere. Un bel reportage, ma volevamo capire se veramente quella è la situazione dell'isola di Nassau, se è una situazione che può essere metafora di quello che sta accadendo in Grecia. E per farlo abbiamo invitato Atanasio Karavias, ingegnere, ex presidente di una cooperativa di agricoli e collaboratore del quotidiano Tovima, www.tovina.gr, il sito ufficiale che già ci avete chiesto qualche settimana fa per capire quello che sta accadendo in Grecia. Ciao Atanasio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno a voi, molto contento di parlare a Milano. Grazie. Sono pronto a rispondere alle vostre domande. E credo che tu non abbia dovuto studiare, insomma non ti sei dovuto preparare. Qual è la situazione oggi sull'isola? Intanto dacci una piccola cartolina, visto che tu vivi lì. Cos'è Naxos? Ce la puoi descrivere? Naxos è l'isola più grande delle Cicladi. È un'isola con 20.000 abitanti, popolazione stabile. Ha una ventina di piccoli villaggi di pastori e agricoltori all'interno e sulle sue meravigliose spiagge, conosciute in tutto il mondo, si sviluppa il turismo. Al comune di Naxos attualmente appartengono altre quattro bellissime piccole isolette di pescatori: Iraklia, Donusa, Skinusa e Koufonissi. Hai parlato di pesca, hai parlato di turismo, c'è anche l'edilizia che è una delle attività, era una delle attività principali sull'isola. E tutto questo c'è ancora o la crisi ha veramente raso al suolo, tra virgolette, quello che è l'economia dell'isola? Sì, sì, purtroppo l'edilizia, che era molto forte qui a causa dello sviluppo turistico, è crollata completamente. Quando dico completamente intendo al 99%. Non si costruisce più neanche una casetta, e questo perché le tasse imposte sugli immobili sono talmente elevate che non conviene più costruire niente. Secondariamente la gente non ha più i soldi per costruire e le banche non danno più nessun tipo di prestito. Quindi l'edilizia a Naxos è finita completamente. Ecco, ma quello che sta succedendo sull'isola è quello che sta succedendo in tutta la Grecia o la vostra è una situazione particolare? Sa, come si dice in Italia, tutto il mondo è un paese. Cioè, praticamente succede più o meno lo stesso. Noi viviamo dal turismo, perché è il turismo che ci dà il grande profitto. Ma nelle città grandi, dove non c'è turismo, le cose vanno ancora peggio. Atanasio, ma è vero quello che è stato pubblicato in questi giorni, nel senso la gente lì sta tornando a coltivare la terra, si sta tornando all'allevamento? Sì, è vero che molta gente, soprattutto giovani, cercano gente che ha finito anche l'università, eccetera, e tornano a coltivare per la famiglia, per poter risparmiare e anche per avere un troppo di vivere più ecologico e più sano. Ecco, ma i giovani fanno o facevano ancora i contadini sull'isola o era una professione appunto abbandonata? Certamente con il grande avanzamento e sviluppo del turismo molti giovani hanno abbandonato l'agricoltura e la pastorizia, però c'è ancora un 40% della popolazione che si occupa anche dell'agricoltura, perché Naxos è l'unico centro in Grecia dove si coltiva una qualità di patate da seme che praticamente poi la vendono al resto della Grecia per seminare patate da mangiare. Quindi Naxos è un po' privilegiata da questo aspetto. ho capito. Atanasio... ha un monopolio, diciamo, su questo punto, e poi ha una buonissima cooperativa agricola dove c'è un caseificio, producono ottimi prodotti nominati come la graviera di Naxos, yogurt, eccetera. Quindi direi che Naxos non soffre così tanto come soffrono altri posti. Ecco, ma da abitante dell'isola e anche da giornalista, sei ottimista o sei pessimista? Sono molto pessimista. È certamente evidente ormai che è una strada senza uscita, senza futuro. La nostra gente affronterà una miseria a livello economico e sociale che ricorda il dopoguerra, in quanto si sono ridotti i salari, stipendi e pensioni al 30% e tutti i benefici sociali come la salute, l'istruzione pubblica, eccetera, sono assolutamente tagliate fuori perché si fa dei risparmi anche lì. D'altra parte la situazione greca è legata alla comunità monetaria europea e se non si decidono i nostri grandi amici tedeschi, francesi, eccetera, il problema non ha nessuna soluzione. Nella migliore delle ipotesi la Grecia passerà 10 anni di una vita veramente molto difficile. Atanasio, insomma, anche parole drammatiche, insomma, poi sentiamo che insomma, è la tua isola, la tua nazione, la passione anche giustamente che ci metti, ma leggiamo sui giornali tutti i giorni queste cose, però sentirle da una viva voce, insomma, mette anche i brividi per noi, che insomma ci piace anche umanizzare le storie. Grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Alto Europa. Mi farebbe molto piacere ritrovarci, anche perché a Milano ho il mio cuore, perché ho lavorato in Brianza per alcuni anni. Ok, ti aspettiamo qua allora. Ciao Atanasio. Buona giornata a voi e agli ascoltatori. Grazie, buon sabato.